9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 5 maggio. La puntata di oggi è dedicata per lo più, non solo, perché bisogna avere, come avete sentito dai mercati, un occhio attento agli sviluppi di questa nuova fase della crisi che si è aperta in Europa, ma dall'Europa rimbalza nel mondo. La mia opinione del tutto personale è che non si tratta solo della vicenda greca. È da metà gennaio che abbiamo aperto una pagina da quando si è chiusa la fase dei mercati in cui si sta corti sul dollaro e l'euro che ha cominciato a ballare, ed è il debito dei paesi avanzati. Iniziano più debole, ma poi si estenderà, questa è la mia personalissima opinione, il fenomeno di tensione e il debito crescente che entra in tensione. Quindi è un nuovo capitolo della crisi dei mercati, e a questo si aggiunge la doppia indagine su Goldman Sachs, quella del regolatore, quella penale. Quindi avremo un'attenzione anche a metà trasmissione sulla borsa, perché è giusto averla così, non solo perché è un giorno di tensione, ma per capire meglio se non sia una nuova fase che allontana l'uscita dalla crisi che da Lehman Brothers ci accompagna. Ma detto questo, la giornata è dedicata a un interrogativo di fondo, e su questo io vi chiedo di chiamare 800 24 00 24 per sapere la vostra opinione, se questa volta sulle dimissioni del ministro delle attività produttive Claudio Scajola venute ieri, i giornali hanno avuto davvero il ruolo improprio che ancora una volta il ministro Scajola e il premier Silvio Berlusconi hanno dichiarato ieri, se è stato un processo mediatico o se invece, come io ritengo personalmente, questa volta i giornali, io sono critico degli eccessi, lo sapete, però mi pare che questa volta i giornali abbiano aiutato tutti i cittadini a capire l'ennesimo episodio che è intollerabile, quando i politici danno a se stessi, attribuiscono a se stessi o si fanno attribuire da terzi dei privilegi che i cittadini ordinari non hanno, in ordine a beni primari come la casa e il suo costo. Sentiamo ieri come il ministro Claudio Scajola, annunciando le sue dimissioni, ha motivato il gesto. E una cosa l'ho capita: un ministro non può sospettare di abitare in una casa pagata in parte da altri. Se dovessi acclarare che la mia abitazione nella quale vivo a Roma fosse stata pagata da altri senza saperne io il motivo, il tornaconto e l'interesse, i miei legali eserciteranno le azioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita. Ora, io lascio a tutti voi, chiamateci la libera opinione intorno alla credibilità del fatto che un politico che ha svolto attività in dicasteri molto importanti, che all'epoca di questa compravendita era ministro per l'attuazione del programma, aveva già alle sue spalle al Ministero dell'Interno prima lo svolgimento del suo dicastero, poi il noto incidente con il giudizio che espresse su Marco Biagi che lo portò a dimettersi, sulla credibilità delle dichiarazioni per le quali, dopo aver affermato fino al giorno prima in interviste molto meditate che l'appartamento in questione vicino al Colosseo era stato regolarmente pagato, di 190 metri quadrati, era stato regolarmente pagato con 600.000 euro di un mutuo del Banco di Napoli e basta, se poi in 24 ore si possa dire ma forse qualcun altro ha pagato 900.000 euro in più senza che io lo sapessi. Io non do giudizi, voglio sapere come la pensate voi e se questa volta i giornali, nel rivelare tutto ciò che è stato possibile sapere dagli atti giudiziari su questi 80 segni al portatore, che secondo quanto emerge dalle indagini sulla cricca dei costruttori del G8 e così via, Anemone, Balducci eccetera eccetera, erano strumenti aggiuntivi del pagamento in liquido dell'appartamento del ministro, possa davvero essere una circostanza che il ministro ha appreso dai giornali e solo dopo aver reso le sue interviste. Questa è una cosa che mi lascia abbastanza, diciamo così, perplesso, in realtà scandalizzato, perché io penso che bisogna usare il linguaggio della verità quando emergono circostanze che hanno a che vedere con i diritti ordinari, che per i cittadini ordinari non si regolano in questo modo, perché a me nessuno mi paga la casa senza che io lo sappia, e non credo che se attestassi di fronte al fisco che per evadere le tasse, mettiamola così, visto che tanti dichiarano un valore diverso all'acquisto della casa, non facciamo finta di non saperlo in Italia, proprio per non pagare le tasse, ma se io dicessi di fronte a un accertamento fiscale, ah beh sì certo c'è una differenza sul valore che non ho dichiarato le tasse, l'ha pagata qualcuno che non so, Credo che nel contenzioso il mio commercialista, se volesse sostenere una posizione simile, mi direbbe che sono impazzito, perché verrei travolto ovviamente dalle sanzioni. Fine della mia opinione. E ora sono molto interessato a capire sulla vicenda di Scajola e sui giornali e sul governo, i suoi effetti sul governo, come la pensano tre ospiti che sono molto più autorevoli di me. Abbiamo innanzitutto Umberto La Rocca, che è direttore del Secolo XIX. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Peter Gomez, giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Peter. Buongiorno. E Mario Secchi, il direttore del Tempo. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Ecco, io comincerei con La Rocca, anche perché, diciamo, non solo per competenza territoriale, il Secolo XIX ovviamente di Genova, a tutti è noto che Scajola e la sua famiglia prima di lui hanno una tradizione politica molto radicata in quella regione, però anche questo invece è un elemento, diciamo, che si trova meno sui giornali, perché i giornali sono più attenti alla vicenda nazionale. Può sembrare eccentrico, ma non è un inizio di tramonto di una dinastia che, insomma, ha avuto e ha ancora un peso fortissimo dalle parti in cui si legge il giornale di cui si direttore, Umberto? Che cosa vuol dire davvero questa crisi lì, oltre all'evento nazionale? Ma guarda, questo è da vedere se si tratta di un tramonto, perché non è la prima volta che Scajola attraversa dei guai giudiziari, i primi si dimise da sindaco di Imperia e poi fu prosciolto dopo circa un anno, era ritornato sulle scene, quindi è da vedere se è la fine. Stavolta la situazione mi sembra un pochino diversa. Il problema qui in Liguria qual è? Che in gran parte proprio per opera di Scajola, che ha sempre, come si dice in gergo, segato i possibili concorrenti, il centrodestra, in particolare il PDL, non ha una classe dirigente, come dimostra il fatto che ha candidato, è tornato alle ultime regionali a candidare un personaggio come Sandro Biasciotti, che aveva già perduto con Burlando e che tutti, anche all'interno del centrodestra, consideravano oggettivamente debole e destinato alla sconfitta. I cattivi hanno sempre rilevato che anche a Genova in realtà il centrodestra in questi anni non ha mai covato un personaggio forte, non ha mai allevato un personaggio forte, perché Scajola pensasse che tutto sommato era meglio così. Ebbene, ma non è del tutto infondato. C'è anche chi dice, come tu sai, che ci sia un accordo tacito fra il presidente della regione Burlando e l'ex ministro, che ci fosse un accordo tacito per dividersi, come dire, le sfere di influenza, e che in realtà Scajola tenesse Imperia. Io non credo che ci siano accordi espliciti di questo genere. Certamente c'è stato il fatto che Scajola si è sempre tenuto alla larga da Genova, conservando il suo radicamento nel Ponente, recentemente approvato, stava provando a entrare in maniera più pesante di quella che aveva fatto in passato su Savona, aveva lasciato Genova tenendosi il Ponente e contemporaneamente limitandosi a non far crescere però dietro di lui una classe dirigente che potesse un giorno prenderne il posto. Questo è un atteggiamento del tutto irresponsabile. Oggi noi scriviamo sul giornale che dal punto di vista politico questa è la grande colpa che ha Scajola nei confronti di questa regione, al di là del sistema di potere che ha messo in piedi nel corso di questi anni, che è un sistema di potere, diciamo così, piuttosto solido e piuttosto gelatinoso, parenti nelle grandi fondazioni bancarie, nipoti candidati alle ultime elezioni regionali che hanno preso un sistema sostanzialmente di nepotismo, perché di questo si tratta. Avanti, non ci prendiamo in giro, insomma. Quello che si chiama il crony capitalism, si direbbe in inglese. Ma la domanda a Peter Gomez, ci aiuti a capire, visto che il più della difesa si incardina sul fatto non sono nemmeno indagato, non sono destinatario di alcun avviso di garanzia, naturalmente la mia opinione è che un politico, prima di questo, ci sono delle questioni che si regolano non solo col codice penale, ma al di là di questo ci spieghi però dal punto di vista penale com'è sta faccenda che non è indagato, come stanno le cose? Poi spiegaci anche un particolare su cui secondo me il Fatto giustamente state insistendo, e cioè il fatto che questi soldi vengono anche dallo scudo fiscale. Su queste due circostanze, per i vostri approfondimenti, ci dai qualche elemento, Peter? Sì, secondo i magistrati, Scajal ha preso questi soldi, lo dicono tutti i testimoni, e alla fine lo ammette direttamente anche lui quando dice che non sa chi gli ha pagato la casa. Il problema è che il reato è, per ipotizzare una corruzione bisognerebbe capire esattamente quali appalti sono stati dati ad Amendone, e se fosse una corruzione sono passati altri 6 anni, in virtù alla legge ex Cirielli che ha limitato i tempi di prescrizione nel 2005 per salvare il premio da una serie di processi, dottorato sarebbe prescritto. Potrebbe rimanere, ma parliamo di assolutamente teorica, la ricettazione, cioè il fatto che lui abbia intascato il soldi che sa essere proveniente di un altro reato, oppure questo sarebbe il punto che temono gli avvocati di Scajola, che al termine dell'interrogatorio venga contestato al ministro il concorso di riciclaggio, perché come sapete tutti questi soldi prendono un giro molto strano, da contanti si trasformano in assegni circolari, vengono firmati per l'operazione di riciclaggio pura. Se gli venisse contestato il concorso di riciclaggio, a Scajola verrebbe sequestrata anche la casa. Ma il punto è un altro, e voglio essere molto breve. Qua noi non dobbiamo fare i moralisti, chiaro, tutte queste cose, è intollerabile il fatto che chi chiede ai cittadini di pagare le tasse paghi in nero una casa non 200.000 euro ma 900.000 euro su un prezzo di 1.700, tutto vero, ma poi dobbiamo semplicemente fare un calcolo di tipo economico. Insomma, possiamo accettare il rischio che Scajola, che noi giudichiamo sulla base dei comportamenti e non dei reati, un ministro come lui che amministrava 5 miliardi di euro dimostri questo tipo di rapporti con sostanzialmente i fornitori della pubblica amministrazione? Qua non si tratta di utilizzare la cultura del sospetto, si tratta di utilizzare il buon senso. Noi ci siamo resi conto che in questi anni le classi dirigenti di questo paese non sono mai state selezionate sulla base del rischio corruzione o malaffare. Il risultato è che queste due voci, secondo la banca, il rischio corruzione e malaffare, secondo la Banca Mondiale e la Corte dei Conti, costano complessivamente ai contribuenti ogni anno tra i 50 e i 60 miliardi di euro in questo paese. Non solo a causa della corruzione di Scajola, a causa della corruzione e del malaffare diffuso in questo paese. Quello che è venuto a mancare in questi anni è il valore dell'esempio. Se vogliamo cercare di recuperare tutto questo, non servono solo delle iniziative legislative, ma servono dei comportamenti diversi. E da questo punto di vista, le dimissioni di Scajola, al di là del fatto che sia colpevole, innocente, sono un punto di svolta, perché finalmente ci si dimette sulla base di comportamenti e non tanto sulla base di iniziative giudiziarie o provvedimenti di questo tipo. Io devo dire che sono d'accordo con quello che ha appena finito di dire Peter Gomez dalla prima all'ultima parola, perché anche a mio giudizio uno degli aspetti di particolare gravità, non penale, ci sarà la prescrizione se non c'è la contestazione del reato di riciclaggio, vedremo, sta nel fatto che questo pagamento, di cui il ministro Scajola si dice ignaro e che lo porterà bontà sua una volta che se ne convincesse a rinunciare all'appartamento, avvenga esattamente da un giro molto ben individuato di costruttori che attraverso il sistema straordinario collegato all'aggiramento delle norme ordinarie, troppo pesanti, lo abbiamo denunciato troppe volte, che impediscono i lavori, ma che invece vengono aggirate, rese più spedite per i lavori straordinari, se è vero tutto quello che immaginiamo che sia vero, pagava politici e ministri per poter costruire e lucrare, e tutto a spese del contribuente. Questo mi pare l'aspetto in realtà più rilevante, perché non si tratta di una vicenda di corruzione su un atto individuale, si tratta di un sistema, perché questi costruttori, dall'indagine di cui da mesi stiamo apprendendo i particolari, quelle relative a Giotto Maddalena, le piscine a Roma e così via, era un sistema annidato in personalità che pare di capire a questo punto, come Balducci eccetera eccetera, costruiscono anche un'ascesa all'interno del sistema dei lavori pubblici italiani con questi sistemi. Ecco, dopo tanto lamentarsi dell'eccesso di scandalo per quello che riguarda Bertolaso, però intanto ecco che il procedere dell'indagine ci sta regalando delle circostanze che secondo me sono oggettivamente molto rilevanti. Quindi io su questo sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Peter Gomez. Il direttore del Tempo, Mario Secchi, vogliamo vedere un secondo che conseguenze ha queste dimissioni secondo te per il governo, per Berlusconi in prima persona? Forse stiamo esagerando ed è l'ennesimo episodio che poi si ridimensiona come tamquam non esset di qui a qualche giorno. Capita tante volte, l'errore con Berlusconi e il suo governo è sempre sopravvalutare colpi, incidenti e sventure rispetto poi a Berlusconi e alla sua tenuta e alla sua capacità di tenere fermo sulle cose di fondo. Come la pensi? Ma la penso così, che Berlusconi per primo ha capito che cosa stava accadendo, perché per la prima volta, dopo tante cose che sono successe più o meno fondate eccetera, ha accettato le dimissioni. E questo è un primo fatto, no? Molto importante. Berlusconi è un politico particolare, ma molto sensibile e attento agli umori del suo elettorato. E quindi nella vicenda Scajola, secondo me, ha visto un punto debole che avrebbe potuto e sicuramente avrà delle conseguenze a livello di consenso e di gradimento del governo, e quindi ha preso la decisione giusta, si è comportato correttamente in questo caso. Che cosa succede adesso? Beh, è molto interessante da vedere, perché il ministero di Scajola è il secondo per dimensione e affari gestiti, dossier da affrontare sul futuro del paese dopo quello di Giulio Tremonti. Sono i due architravi dell'azione di governo, sono il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Industria o dello Sviluppo Economico, ha cambiato nome varie volte. E come si può immaginare da questa radio alle imprese, insomma, questo insieme al Ministero dell'Economia è l'impresa che è, insomma, il ministro che interessa di più. Prego. Non ci sono dubbi, il sistema imprenditoriale, l'intero establishment economico finanziario guarda quello che accadrà con grande preoccupazione. Perché mai come in questo caso l'uomo è anche le cose che si faranno, no? Non si può prescindere dalla persona. E mai come in questo caso l'uomo o la donna che andranno a prendere quella poltrona dovranno confrontarsi e qualche volta anche scontrarsi con Giulio Tremonti, il quale ha in mano la cassa. E la tiene bene in mano, bisogna anche dir la verità. Dunque la dialettica dentro il governo sarà un punto nodale di tutta questa faccenda. Si dice che Tremonti da tutte queste storie ne esca rafforzato, però è una lettura secondo me minimale e anche sbagliata. In realtà Tremonti la partita dentro il governo l'ha già vinta nel momento in cui la sua linea di rigore sull'economia è risultata quella giusta, per tutta una serie di eventi anche esterni, non ultima la crisi della Grecia. Io sostenevo per esempio che uno stimolo fiscale sarebbe stato utile e corretto. Adesso, se vedo questi i fatti che coinvolgono la zona euro, dico beh. Forse sbagliavamo, ha avuto meglio la ragione lui, sì. Ha avuto ragione Giulio alla fine, no? Va bene, ti interrompo solo un secondo perché adesso abbiamo un necessario approfondimento sulla borsa e poi la pubblicità. 9:34, 30 secondi, eccoci tornati in studio. Tre brevi flash aggiuntivi dall'intervento della cancelliera Merkel, quindi proseguiamo su queste informazioni in diretta sui mercati. L'intervento della cancelliera Merkel al Bundestag, tre i punti di fondo, lo sta ancora pronunciando. Il primo è che bisogna cambiare il patto di stabilità e crescita europeo, e a dirlo il cancelliere del paese leader vuol dire che questa volta ci siamo. Il secondo è che gli aiuti alla Grecia non sono stati ritardati dalla Germania, sono senza alternative, però... Attenti a questa aggiunta del cancelliere Merkel, banche e creditori non devono sottrarsi alla loro responsabilità. Vi potrà sembrare una frase ellittica, ma ve la traduco così: poiché, come evidente, i mercati non giudicano sufficiente i 110 miliardi 80 europei, 30 fondo monetario attribuiti di sostegno alla Grecia, come si vede dalla reazione dei primi giorni, significa che si deve andare a una ristrutturazione delle scadenze del debito. Ergo, Da questa frasetta del cancelliere si capisce che il cancelliere tedesco inizia a dire: le banche tedesche, le banche francesi, molto meno quelle italiane, tutti i detentori di titoli greci, che quindi perderanno sugli interessi e vedranno il rimborso dei loro titoli protratto nel tempo, per favore non iniziano a dire che hanno bisogno di aiuti anche loro. Qua la frasetta, ripeto, che dice creditori e banchieri non devono sottrarsi alla loro responsabilità, implica questo. Terzo punto, il cancelliere tedesco chiede più regolamentazioni per gli hedge fund, per i derivati. C'è un passaggio che si riferisce anche alle agenzie di rating, con l'annuncio che viene per la prima volta da un cancelliere tedesco della necessità di pensare anche a un'agenzia europea che rompa il monopolio delle tre agenzie di rating collegata alla BCE, ma indipendente, e questa è un'idea molto interessante. Chiusa parentesi, se emergeranno altre cose, comunque, vista la priorità che questa radio deve dare ai fatti economici e finanziari, ve ne informeremo. Torniamo ai nostri ospiti, torniamo alle vostre telefonate, al caso Scaiola, direi di sentire innanzitutto un po' di voci di ascoltatori. Gaetano da Frosinone, cominciamo da lui. Prego, ci dica. Buongiorno Giannino e complimenti per come ha descritto in queste settimane la vicenda greca. Ci ha fatto capire molto di più di quanto avessimo fatto leggendo i giornali. Troppo buono. Senta, per quanto riguarda la vicenda Scaiola, ritengo che ci si stia concentrando sul fatto che sono arrivati questi 900.000 euro, non si sa per quale motivo, il ministro purtroppo non se n'è accorto, come Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre acquistava una casa con vista Colosseo a un terzo del valore di mercato. Ma detto questo, la realtà vera è capire quali sono le motivazioni per le quali questo imprenditore avrebbe fatto questa elargizione benevola nei confronti. Ma secondo me, il ministro Scaiola era ministro degli interni, questo nel 2004, ex, no, all'epoca era ministro per l'attuazione del programma. Comunque era nel governo dell'epoca, questo imprenditore era un imprenditore che comunque lavorava con la pubblica amministrazione, forse, spero di no, spero per il ministro Scaiola di no, ma insomma è un imprenditore chiacchierato, quindi speriamo che non sia così, ma insomma i fatti sembrano andare in questa direzione. Questo farebbero pensare. Grazie Gaetano, continuiamo con Alessio dalla provincia di Firenze. Che pensa Alessio? La stampa, c'è anche il ruolo della stampa e mi interessava capire questo. Prego Alessio. Volevo rispondere, buongiorno a tutti, intanto saluto lei e gli ospiti e gli ascoltatori tutti. Praticamente volevo rispondere alla sua domanda, era se era stato praticamente impropriamente ucciso dai giornali, diciamo così. Sì, esatto, se la stampa aveva fatto no il proprio mestiere. La risposta mia è sì, la stampa ha fatto il suo mestiere. Non è una questione, io credo che non ci si debba arrovellare in questo momento nella definizione del come mai avrebbero pagato, perché quelli sono argomenti di natura penale. Qui si parla di una opportunità, cioè non è opportuno che una persona che non dice di non sapere chi gli paga la casa, oppure che non si accorge che la casa è pagata, ha pagato un terzo di quello che è il suo valore, e mi venga a, cioè, sia quello responsabile di coordinare l'economia di una nazione, e questo è il mio punto, perché la crisi morde tutti, lo sappiamo, lo vediamo, lo sperimentiamo, specie chi è sul campo, ma anche dagli osservatori non manca giorno che ce lo ricordano. Certamente, e quindi insomma è un po' difficile, no? Che sarà difficile convincere qualcuno che io sono che non mi accorgo chi mi paga la cena. Sono in grado di organizzare la ricerca, lo sviluppo, la costruzione o meno. Grazie Alessio, io ricordo a tutti che per avere gli incentivi di ricerca e innovazione le imprese italiane hanno avuto una certa cifra e poi si sono trovati il click day, per cui a seconda casualmente del nanosecondo in cui premevi il tasto non avevi diritto all'accesso a questi fondi. Ecco, facciamo un paragone tra queste due cose. Un po' di demagogia, sì, un po' di demagogia, però per centinaia di migliaia di imprenditori italiani che poi vengono accusati giustamente di essere responsabili del fatto che la disoccupazione sale, apprendere che magari, no, da chi dall'altra parte ti fissa la procedura del click day non sa nemmeno chi gli paga la casa, ammettiamolo, non è proprio, no, che poi uno torna al lavoro e decide di tenere aperta l'impresa e di beccarsi i fischi giusti e legittimi di chi ha la preoccupazione del posto di lavoro, dicendo però intanto c'è qualcuno a cui non sappiamo chi paga la casa. Gianni da Roma, come la pensa Gianni lei? Buongiorno Giannino, tutti i media si concentrano su un aspetto marginale, ha pagato poco la casa. Scusi Giannino, ma se io compro una casa che lei vende a 500 e vale 1 milione, è un affare tra me e lei è matto, io la compro, punto. Non è questo il tema. Il tema è un altro, lui è un grande economista e non vi siete concentrati, non avete buttato i riflettori sull'aspetto più importante. Primo, la provvista di Aimone di 900.000 euro, come vengono? Due, gli assegni da 12.000 euro dove uno zelante impiegato di banca della Deutsche Bank giusto. Ha scoperto che 80 assegni da 12.000 euro non superano il target fissato dalla Banca d'Italia di 12.500 e quindi con la segnalazione automatica. Esatto. Questo è importantissimo. Gianni, lei ha perfettamente ragione, tant'è che questo ci torniamo nel secondo giro dei nostri osservatori. Io quando ho buttato lì la cosa riciclaggio e così via con Peter Gomez non abbiamo approfondito, ma questo è un altro, anzi questo è uno degli aspetti. Guardi, non è che è il primo e il secondario, perché dice, ripeto, se è ministro qualcuno che paga le case e gli loro non lo sanno, è il fatto politicamente rilevante, ma quello che, sul quale Gianni ha perfettamente ragione, dobbiamo adesso anche accentrare un po' l'attenzione, e questo il filone di ricostruzione del giro del fumo, per così dire, ecco, si direbbe a Torino. Daniele da Verona, prego. Daniele, breve. Sì, buongiorno e grazie, buongiorno a tutti. Io volevo ricollegarmi un momento a quello che ha appena detto l'ascoltatore. Io credo che qualunque persona, anche chiunque stia ascoltando, che ha avuto occasione di comprare una casa, sa che se si vogliono fare le cose bene, una cosa come quella che ha detto il ministro non può accadere. Io faccio l'avvocato e quotidianamente noi veniamo, io parlo al plurale, insomma, credo un commercialista, un notaio, un avvocato, si trova di fronte a delle scelte, o consigliare bene o consigliare male. Una cosa come quella che ha detto il ministro con questo giro di assegni circolari è assolutamente inverosimile. Tutto qua. Grazie. Allora, Peter Gomez, questa vicenda anche della parte liquida, Deutsche Bank, il taglio degli assegni, che cosa può far pensare? Fa pensare quello di cui ci siamo resi conto. L'impresa Anemone aveva una vecchia consuetudine a maneggiare grandi quantità di denaro contante. Parte di questo denaro, secondo l'ipotesi dell'accusa, andava a una serie di funzionari pubblici e poi aveva messo in essere tutti i sistemi classici per cercare di occultare questo tipo di provviste. In questo caso è abbastanza semplice, c'è una terza persona, l'avvocato Zampolini, che fa emettere questi assegni a nome delle venditrici e quindi il nome di Scaiola o qualsiasi traccia che lo riguardasse non rimane da nessuna parte. Il problema è, però, io lo ribadisco, al di là del caso Scaiola, il problema del caso Paese. Noi prima tu parlavi giustamente della crisi greca e quant'altro. Noi sappiamo che una parte, non tutta, di questa grande crisi dei mercati è causata da una serie di comportamenti che sono comportamenti oltre che antietici e antieconomici. Sì. Non a caso in Grecia abbiamo tutte le statistiche che considerano la Grecia il paese più corrotto d'Europa, al pari dell'Italia. Diciamo un po' più dell'Italia, se mi pensi, ma tutto qui, ma senza volersi gloriare, perché siamo in fondo. Vabbè, comunque a me ricordavo al pari dell'Italia, esatto, non potrei sbagliare. Esatto. Allora, è inutile, non stiamo discutendo di buoni, cattivi, cose che si fanno o non si fanno. Questo sistema è chiaramente antieconomico, quindi bisogna cercare di trovare delle soluzioni. Una delle soluzioni tante è far funzionare la giustizia, ma chiaramente non si può pensare che un sistema di malaffare e corruzione così vasta, perché stiamo parlando, è più importante quanti anemone ci sono in Italia che sono abituati a fare affari di questo tipo, di quanti scaiola ci siano, non può essere esclusivamente combattuto con la repressione penale. Però vanno fatte alcune cose. La prima cosa è dare un segnale, non continuare a girare intorno a disegno legge, corruzione o quant'altro. Questo paese ha firmato una serie di convenzioni anticorruzione a cui non ha dato attuazione. In Italia la corruzione tra privati non viene punita, in Italia il traffico di influenza non viene punito, in Italia non viene punito l'autoriciclaggio. Cosa vuol dire? Io vendo 1 miliardo di droga e dopodiché pongo in essere tutta una serie di operazioni per far scomparire quel 1 miliardo e ripulirlo. Io verrò condannato solo per il traffico di droga, non per il riciclaggio. No, è chiaro. Io su alcune di queste ultime cose, ripeto, non sono molto d'accordo, ma non approfondisco, nel senso che la corruzione tra privati diventa una cosa poi di difficile, a volte molto scivolosa e saponosa possibilità di prova, e in un procedimento ordinamento penale come quello italiano, in cui secondo me c'è una disparità di armi tra accusa e difesa, a volte potrebbe produrre. Però è un fatto quello che ci ha ricordato Peter rispetto alla perseguibilità in termini di ordinamenti comparati di queste fattispecie, è un fatto quello che ci ha ricordato Peter. Eccoci tornati in studio, mentre ci sono delle ultime ore di attacchi coordinati nel sud dell'Afghanistan, varie esplosioni, si tenta di capire chi può essere eventualmente coinvolto, ma detto tutto questo, torniamo in questi ultimi minuti a chiedere ai nostri ospiti, iniziamo Umberto La Rocca e Mario Secchi, ancora conseguenze del caso Scajola. La mia domanda a La Rocca va in due direzioni. Primo, cosa pensa degli effetti su questo governo, eventuali effetti a catena, i giornali oggi si scatenano, dicono si teme per altri ministri, anzi questo fattore è diventato uno di quelli a cui si collega il fatto che non c'è stata l'immediata sostituzione di Scajola nella compagine, oppure anche qui attenti a non esagerare, perché Berlusconi, l'avevo già chiesto a Secchi, è uno ogni volta capace di tornare come Ercolino sempre in piedi, come se nulla fosse avvenuto. Seconda cosa invece, cosa può cambiare non tanto per il passato ma anche per il futuro in Liguria e Genova, cioè è una specie di salta un tappo, è qualcosa di positivo o ulteriormente si fa un passo indietro secondo te per l'attenzione politica portata a quella regione, secondo me un po' scarsa rispetto a quello che conta davvero, i problemi che ha? Ma comincio da quest'ultima, da questa seconda domanda, Oscar, perché è di più facile risposta. Io penso che cambi davvero poco o niente, nel senso che negli ultimi, è vero, la Liguria perde l'unico ministro che aveva nella compagine di governo, ma questo ministro ha portato sostanzialmente dei vantaggi soltanto alla provincia di Imperia per qualcosa, e vantaggi è poco più, diciamo, quel che la scarsa rilevanza della nostra regione sul piano è politico ed economico, ha ragioni molto più strutturali che non la presenza o l'assenza di un ministro. Questo per quanto riguarda le conseguenze in Liguria. Per quel che riguarda invece l'altra domanda, conseguenze sul governo, ma io vorrei dare una risposta un po' provocatoria, nel senso che le conseguenze non ci saranno. Io sono d'accordo con Secchi che sul piano politico Tremonti aveva già vinto la sua battaglia, l'aveva vinta non solo perché la sua ricetta si è dimostrata quella giusta, e forse non tanto per questo, quanto perché la Lega ha vinto le regionali, e quindi dopo la vittoria delle regionali Scajola ha, come Fini per un altro verso, come Gianni Letta per un altro verso ancora, Scajola la partita con Tremonti l'aveva perduta. Ora, ma secondo me ci saranno ancor meno conseguenze, ed è questa la provocazione, sul piano dell'attenzione al problema della corruzione, cioè dell'etica, chiamiamola così, della politica. Perché oggi diceva uno degli ascoltatori, la stampa ha fatto il suo mestiere, mentre in passato abbiamo visto che soprattutto nel centrodestra c'è un atteggiamento in generale negativo nei confronti della stampa, che indaga sulla politica, che va a guardare, che sfrucuglia, ma questo perché accade? Accade soltanto per due motivi. Primo, perché in questo caso perché il comportamento del ministro è particolarmente odioso dal punto di vista sociale, cioè risulta odioso che si sia potuto comprare una casa da 1,5 milioni di euro facendosi aiutare da qualcuno in maniera indebita. Questo spinge la gente, l'opinione pubblica, a dire i giornali hanno fatto bene a indagare. Il secondo motivo è la difesa del tutto improvvida di un politico al quale, come diceva qualcuno ieri sera, è saltato il controllo, l'autocontrollo negli ultimi giorni, perché la difesa è stata assolutamente scellerata. Quindi questi due motivi. Ma scusate, io farei una domanda. Ma scusate, nel caso di Denis Verdini, la stampa non ha fatto il suo lavoro? Lo ha fatto, eppure in quel caso il centrodestra, diversamente, siccome la situazione è stata considerata più sostenibile, ha lasciato passare del tempo, dopodiché Verdini è rimasto al suo posto. Dunque io penso che questo momento di svolta, sono meno ottimista da questo punto di vista di Peter Gomez, nel senso che momento di svolta Andiamoci piano, dice, perché molte volte ci speriamo, ma poi le svolte in realtà per radicarsi nel paese hanno bisogno, come si suol dire, di ben altro. Grazie anche a Umberto La Rocca. La domanda per Mario Secchi: oggi alcuni quotidiani scrivono il Cavaliere teme una vera ondata, una specie di nuova Mani Pulite, nuovi ministri che sarebbero stati travolti, eccetera. Dall'altra parte invece Umberto La Rocca ci dice, ma insomma, poi in realtà le grandi spallate giudiziarie, molta speranza, aspettativa, molte polemiche sui giornali, in realtà poi su questo Berlusconi ci ha insegnato altro. Tu che pensi? Io penso questo, che bisogna distinguere due piani, gli attacchi al Cavaliere, diciamo così, le inchieste su Berlusconi, da invece le inchieste sugli altri politici. Perché? Perché le inchieste su Berlusconi non hanno prodotto risultati, perché l'elettorato le ha sempre vissute come viziate politicamente. E quindi ogni volta poi che si è andato a votare non hanno prodotto alcun calo del consenso del Cavaliere. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato invece è che quando queste inchieste colpiscono personaggi che hanno una caratura diversa e non hanno il carisma che ha il Presidente del Consiglio, diventano pericolose proprio perché intaccano il consenso delle istituzioni e quindi del governo e così via. Quindi secondo me in realtà succederà che questa ondata che arriverà, potete starne certi perché nelle redazioni dei giornali raramente si sbaglia e quindi ci sarà un ritorno molto forte di inchieste giudiziarie che coinvolgeranno maggioranza e opposizione, quindi bipartisan diciamo così, produrrà dei risultati a mio avviso, perché il quadro politico dopo la direzione shock del PDL è in forte evoluzione. Per esempio non si può fare a meno di notare come Fini abbia subito posto l'accento sul tema della legalità. Eh sì, quindi Fini lucida l'artiglieria, per così dire. Certo. Fini ha cominciato un'operazione di terra, l'abbiamo chiamata noi al tempo, che prevede poi lo schieramento delle sue truppe in favore del mettere nero su bianco il disegno di legge anticorruzione. Quindi in realtà qualcosa si sta già muovendo e io credo che il governo in realtà coglierà la palla al balzo per prendere alcuni provvedimenti, anche in questo senso, cioè cercherà di anticipare gli eventi, fare quadrato quando sarà necessario e quando sarà utile ovviamente, tagliare i rami secchi e le posizioni che non sono difendibili quando questo sarà ineludibile. Bene, è già accaduto con Scajola. Esattamente, questo è vero. Io ringrazio anche Mario Secchi, oltre a Umberto La Rocca. Per inciso, a chi mi chiede un'opinione al volo su quello che ha detto ieri l'onorevole D'Alema, ma cosa volete che vi dica? Non metto sullo stesso piano le vicende, anche l'onorevole D'Alema come tantissimi politici. Io ho conosciuto tantissimi politici quando facevo politica che abitavano in attici e terrazzi di Roma di enti pubblici o di enti bancari che pagavano affitti che il cittadino ordinario si può vedere con il binocolo. Quella è la realtà ordinaria dell'Italia. Penso che quando l'onorevole D'Alema ieri sera abbia detto vai a farti fottere a Alessandro Sallusti, come vice direttore del giornale, abbia dato un'idea di un politico che si considera al di sopra del fatto che deve poter rispondere anche alle domande di Alessandro Sallusti. Mi scuso con gli ascoltatori che non abbiamo potuto mandare in onda e do anche atto a molti che hanno mandato sms da banche e agenzie immobiliari dicendo guardate che la prassi di dichiarare valori diversi è regolare. Sì, ma non è questo quello che si contesta, come abbiamo visto all'ex ministro Scajola, bensì il fatto di non essere credibile quando dice di essere ignaro che altri avevano pagato. E anzi, quei denari vengono da un giro di denaro che viene scudato e le indagini in questo caso e i giornali secondo me hanno svolto il miglior servizio alla democrazia che si possa fare. È raro che voi me lo sentate dire, ma questa volta lo dico davvero. Benissimo, grazie in regia Filippo Aureggi, grazie a redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.